Mushi mushi mushi mushi mushi. Dimmi. Ah, sei tu allora? Non ero sicuro. Hai detto che sono io, sono comportabile. Ho il Baofeng modulato. Grazie, ma sei a casa? Sì, sono a casa, sono a casa. Io sono a casa forzata. Oggi non si esce. No money, soldi, voglio aspettare lunedì. Sì, tu li dici. Ah, è vero che tu li tiri i cosi. Però ci sono già in pratica, basta andare col banco, ma dove tu sei, la banca è chiusa. No, no, basta che metti la carta, basta che metti la carta, si aprono le porte e vai col banco. Però da noi non accreditano fino all'ultimo giorno. Abbiamo provato tante volte ad andare i giorni prima, la domenica, no, nel caso... che fosse l'uno, fosse domenica, niente, non c'è, devo aspettare il giorno di apertura. Strano, perché oggi è uno, quindi dovrebbero per forza esserci soldi, le poste ci sono, per dire, dovrebbero esserci anche in banca, accreditati, capito? È strano, dovresti provare magari ad andare lì con la carta e fare... provare a vedere se hanno se ritiri a meno di 600, già lo sai che di 600 non ti fanno togliere. Sei da solo qua? Sì, io stavo, ho acceso la destra, figurati, ho acceso il baracchino la 87, perché l'altra volta sono andato, l'ho acceso, dopo 5 minuti fai la portante, allora ho preso, l'ho aperto, ho toccato col cacciavite, l'ho stampato e il nuovo ripartito. Ascolta, ce l'hai sempre quel portatile nero che ti avevo dato per la 27? Eia, ce l'ho sempre, e anche l'antenna, ti ha dato anche l'antenna addirittura. Allora, guarda che di quell'apparato ho trovato la custodia in finta pelle con la cinghia di tracolla. Appena posso te la do, appena ci vediamo te la passo. Finta pelle con la tracolla, beh, tenere la tracolla, no, per non perdere mai. Ho capito, va bene, non c'è problema. E io invece c'ho un microfono di quelli per quei portatili KT330 che ho trovato in garage, che per il Baofeng non va bene, è totalmente diverso. Se c'è uno di quei portatili lì, volendo un vecchio, se no do così l'utilizzo. No, niente modello vecchio. Una domanda, sei in larga o stretta? Stretta. Oh, allora provvedo un attimino, mi ricordo come si fa. No, aspetta, c'è scritto narro, no, non stretta, narro. In inglese narro, cosa vuol dire? Vuol dire stretta. Tu come ce l'hai con quel sedere? Narro, ah no, forse tu ce l'hai wide, chi lo sa. Largo! Quello è quando sforzo, capito? Allora che deve uscire un tubo molto più largo, allora ci rimettere appena di olio e vedrai come scende. Ecco qua, prova un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Adesso ci siamo, dai. Ti passo perché io c'ero in largo. No, no, non hai inteso nessuno, proprio un motorio, peggio della 27, 27 non c'è neanche un cane, figurati tu, tutti quanti i canali ho girato, tutti, all'1 al 40, manca propagazione, c'è, figurati tu. Sì, lo so, propagazione zero, siamo ben lontani dalla primavera, siamo diametralmente forse la primavera, la propagazione del trasolo Sì, lo so, ma c'è parecchia gente che sta modulando col, come si chiama, col telefonino. C'è un programma della Midland, c'è, e parecchia gente sta usando quello. Come c'è, come era detto, solo che quella non è radio. Lì è come se stessi telefonando, c'è un canale, come lui, ma non è radio, non è radio. Comincia da chiaro che più basta. Quella è un'altra cosa, è valida quanto vuoi, però. Me ne stava parlando Antonio Bombo l'altro giorno, e ha detto, quando ci vediamo, ha detto, me lo programmi, così me lo metto nel telefonino. Sempre se ne vale la pena. Ancora vivi siete, sì? Sì, la Luca del Monte. Vabbè, Luca, come sta? Ah, già mi senti allora? Sì, oscillante però, come se fossi in movimento. Aspetta che trovo la posizione, aspetta. Ah, mi senti adesso? Sì, la Luca, sì, per forza di radio. Non dici? Sì, io non sto più entrando, non mi aspetta perché sono giorni che sono proprio depresso. Questi giorni un po' meno, però un po' da racchino mi stancato, un pochino, sto cercando di riprendere piano piano, un po' più di vabbè dai, piano piano, no? Se uno si deprime poi è un casino, cosa ne ha? Non ne ha niente, capito? Non ci sei solo tu, ci sono pure io così, purtroppo è... Quando uno si fa troppe seghe mentali, è quello, accumula tutto, è un casino. Però almeno tu, no? C'hai la materia prima, no? Io... Maria Mano, cioè, capito? Maria Mano. Se tu stai a casa, non esci, non frequenti nei posti, è normale che, cioè, non ti bussano, come al lavoro, non te lo bussano a casa. Se io non me lo vado a procurare il lavoro, non c'è. Cioè, non faccio niente, ecco la bici, poi c'è, però piano, me la invento, vado, cerco e faccio. Via, e fai bene, e fai bene. Ah, ben sentito l'ho portato, dai. Avevi tu risolto per l'antenna per la 27? Sì, ho una Storm 27, sì. E vabbè, ho stazionaria a 2, 2 e mezzo, non lo so. Ma va bene, dai, già funziona. È che non riesco a buttarle giù. Comunque, me l'ho ascoltata anche a te. Stamattina ti ho... No, guarda che ti ho nominato. Non t'avevo più sentito. Pensavo che eri fuori, boh. Non lo so, forse per fare... Non so, dei controlli. Fuori di capo ero. Ascolta, ma la storna l'hai recuperata, l'hai comprata? Ah, una cosa, allora, se tu hai letto il manuale, bisogna mettere il capo di una certa lunghezza, no? Beh, io ti dico una cosa, io l'avevo messo di lunghezza casuale, così ci metti, e pure stazionario, nulla, uno, non si muoveva, una cosa vicina, il cavo era messo a calcio, a casaccio, quello di norma, quell'antenna non dovrebbe avere stazionario, a meno che non sia troppo vicino al muro o al sentimentale. Attaccata la ringhiera, cosa dove l'attacco? Alla ringhiera l'ho attaccata. No, va bene, l'importante è che all'altezza del radiatore non ci siano anche i sentimentali fissi. Cioè, perché la base è attaccata alla ringhiera, va bene. Vai Antonio. Ma noi ci vogliamo da fare un'antenna del genere. Ma sapendo un tubo di plastica, 5,50 m di cavo da uno e mezzo, elettrico. E gli aggancia una staffetta con un PL e la somma è fatta, non è che ci voglia questo granché a costruirla, l'ho costruita io e ce l'ho piazzata nel tetto provvisorio e funziona benissimo, la stazione è 1-1, gli ho messo un pezzo di tubo metallico di quelli delle, cioè per essere recuperato da quegli aggeggi che si usa per il bagno, per metterci le, poi ti posso dire, gli asciugamani. Sì, porta asciugamani metallo, è un classico. Sì, la storia lo dica aperta e credo che siano 5,5 metri di casa, perciò non ho bisogno di radiali, capito? È come se fosse una mezza onda a tutta qualità, infatti radia anche poco. cosa succede? Noi l'ho costruita, funziona benissimo, ce l'ho agganciata nel a Saturnecco, stazionale 1 e 1 c'è, cioè. E sbuca dal tetto, sì e no, il tubo neanche un centimetro e mezzo, poi tutto il resto dello stile è fuori, capito? E funziona benissimo, l'avevo costruita per Giuseppe Lumicino. Solo che ancora Giuseppe non ha staccato l'antenna che c'ha, e quindi non se ne farebbe niente, è senza cavo poi anche. Quando si compra il cavo allora installo quella. Va bene. Va benissimo. Se l'ha tolto, mi ferisce. Pompone, ma mi senti? No, Pompone non mi sente, Marco. Oh, Antone, non lo senti io, Luca? No, l'altro giorno lo sentivo bene. Deve essere che in un punto negativo per me. Sento che... per la modulazione è nulla. E Luca, tu lo senti, Pompone? Benissimo. Un problema questa banda, è un problema perché è troppo corta l'onda. Certo che con Zello non è un problema di lanterne, di stazionario. Quello che dico io, vedrei che i radiomotori finiranno così. Stanno con gli apparati che praticamente sono un cellulare, insomma, capito? Non ci servono più. Sarà più potente la via a mettere, quasi, il proprio smartphone, una vergogna. E poi potrei fare la videochiamata anche, così ti vedi, magari quello è un tal sensuale. Come tu lanciato il letto, no? Ti faccio sapere che ci sono ragazzi che sono tutti nudi, già lo sai, con l'affare dritto, pronti. Sto passando male. Lo sai che di tutto di più ce n'è. Lui su Facebook, di tutto chat strane, è diventato un toiaio. Poi c'è la crema per le stazionali, per mettere nel pisello che te lo fa allungare i 20 cm domani. A meno che non lo stivi tu, con lo stira camicie. Ricordi una volta lo spray contro le stazionali? Sì, quello già me lo ricordo, va bene, da quei dietro ci abbiamo mandato a prendere la GBC. E magari quello ci diceva, l'abbiamo terminato. Sì, meno male già si metteva a video e... Figurati. Abbozzava, dice guarda, dice l'abbiamo terminato, dice arriva la prossima settimana. Lo sapevo anche lui quello scherzo, perché anche lui è stato cipiglia, lo sai. Torna le viste, guarda. Mi credi lui? Ho detto, strano che non mi sente Pompugno, boh. Vabbè, sento bene io. Ma c'è questo, Pompugno, anziché avere una scena di gratis, una mi ha fatta bene. Ciao. Mentre che... non lo so nemmeno io cosa sia. No, è una direttiva verticale, 12 elementi, quindi figurati. Ed è puntata a Monteoro. Ascolto i traghetti quando passano lì a parco dopo Portoferro, figurati tu. Verticale invece non ho, con l'X 300 nulla, non c'è niente da fare, non si adatta qua, capito? Perché c'è troppa roba una attaccata all'altra, capito? Il problema è quello. Se la metto più giù, l'X 300 va benissimo. Invece l'attore esce con quella. Ma come tu ben saprai, io puoi lineare più stretta di banda. Per qua va bene, è in stretta. Massimo 1,50 ma per stretta è più corta, meno guadagno, però è un po' capone. Per stretta è piccola. Se no la bici 200. Credo che sempre lo spieghiamo. La carica di ambito di Torino alla frequenza di Torino. Però dubito che la trovi in vita ancora, perché da quelle persone stanno chiamando le porte di magazzino. Io l'ex c'è nel garage, c'è la Giovanna mezzo di prendermela, poi c'ho anche la discona, c'ho, che fa voi nuova nuova, buttata dentro il cartolone, e te la faccio vedere quando parti qua di tutti i giorni. Ma chi sei? Ma chi tu sei? Ciao, sto uscendo perché è Luca. Sì. Ho chiamato Graziano, vediamo un po' se c'è. Graziano, ci sei? Contento, sì. Buonasera, io, ciao. Ciao Bacchi, se mi ascolti, anche voi però, se ti passi. Infoltabile il coso. Siamo infoltabile. Come cavolo si chiama? Bisogna vedere da apparato a apparato. In tutto. Va bene. Comunque sono entrato solo tardi, sono trovati pure questo che tanto vuoi uscire io, mi devo preparare. Ok, dai, no, anch'io sono entrato perché stavo uscendo perché avevo fatto un giro di cavi e cavetti, ho balenottato due o tre pezzi, dunque per mettere l'antenna di fuori, ma mi sembra che stia andando, dunque ritorno sui miei passi. Bene. Ci sentiamo con gli amici, un attimo di QRX e poi rientro. Ciao Luca, li prendi. Ciao Bacchi, dai, ci sentiamo più tardi magari, va bene. Avanti Marco. Ciao anche a Tino se mi ascolta, avanti Marco. Ti ascolto lui, ciao. Buonasera. Un attimo Luca. Ciao Giomari, buonasera anche a te. Buonasera. Oh, chi sei? C'è Tino, Marco, Condor e Pompurio. Sa cosa sta sempre? Marco, forse non mi sente. Marco. Posso dirci un attimo, sta facendo prove. Ma Gio Maria lo senti? Sì, mi sembra che sia di averlo sentito, vai Gio Maria. No Marco, fai, sono qua, va, sono rientrato adesso. Mi sta arrivando a tratti, cioè come parla, mi si chiude lo squelce, credo che sia una penne larga, perché io Pomponi siamo una penne stretta, Tino strappava, Gio Maria strappa, anche lui sta un po' strappa. Aspetta che cambia l'antenna, vedere un po'. No, già c'è il segnale, Gio Maria, c'è il segnale, però il problema è che sono una penne stretta, o quantomeno non lo sa mettere le antenne in lato. Io sì, lui magari non so se fa l'impostazione. E quindi come misurante, siccome c'è la decisione stretta, ce l'ho questa. Io ti sento perfetto in basso, però ti sento benissimo. Va bene, la radio va benissimo Marco. Io sto scendendo l'antenna su, con Gomino, forse per quello magari. No, dipende da me, dipende da me. E beh, voi come state? Io non so. Ho quasi abbandonato il baracchino perché sai, no? Così, malumori, preoccupazioni, già lo sai, no? Quindi ci sono altre priorità. Poi ci sono voluto entrare proprio perché non dovevo uscire da nessuna parte. Vediamo, c'è chi non c'è. Copiato? Va? Non esce più di radio questo. Ma a me, riferiti a me, Marco. Adesso Gio Maria, mi avete copiato, beh, non sto entrando perché ho preoccupazioni, malumori, capito? Me lo sono immaginata Marco, me lo sono immaginata. Comunque l'importante è che la salute sia un po' migliore, dai, speriamo che migliori ancora. E lui, perché chi è che non ha problemi così, vale. E purtroppo così, ma cerchiamo di cercare di superare, capito, queste difficoltà. Praticamente va bene, è un po' giù di morale, quello che c'è, la vita è quello che è, Sassari quello che è. Va bene, io rilancio per tutto, ma Antonello è già tutto, Antonello. Sono qua, dimmi tutto. No, no, perché ho avuto un blackout qua, non sentivo nulla. Se parli allo mal vivo, deve essere che con la tenere in gomma la sensazione esterna e Luca altrettanto. Loro sono di fronte, quindi ci ascoltano, ma io non li sento per niente. Capa capa, ti faccio sentire il Saturno comunque l'antenna, guardami. Ha schiacciato il microfono sbagliato, ragazzi. Eccolo qua, questo è il Saturno con l'antenna che ho costruito io. La SOM 27. Ah, se la liquidità esiste. Adesso meglio va, guarda un po'. Ah, abbiamo il scienziato lei. Ah, Gio Marino. Ha detto Antonello che non si copia. Però è strano, lui che è in alto. E non si ascolti qua. Io l'ho detto, che Antonello ha varie antenne, ma sono tutte poche. Io gli ho detto basta, un'antenna però seria, non queste strane recupero. Io metto magari la parte dietro, forse per quello che non mi sente bene. Comunque aspetta che un attimino che cambia posizione. Là. Antonio, tu che stavo aspettando 58. Qua? Sì, 58. Quanti metri erano? Pochi. 15 metri sono. C'ho la calata a 15 metri sia per la direttiva sia per la X300, quindi sono due calate. Più la calata quella 75 ohm che c'avevo prima, con quel cavo rigido, quella l'ho agganciata a quella specie di bazooka che ho costruito io. Ma io l'ho sempre detto, capita. H155, io c'erano solo 10 metri e c'ho quello, addirittura dai 20 metri in su metterei la camicia per le UFO. Guarda che perde un bel 58, non sembra, ma perde un bel. Sì, vabbè, ma devi pensare che sto usando il portatile io, l'apparato grande è quello che mi hai dato tu, è dentro la scatola e ce l'ho messo dentro l'armadio, intanto non ne valeva la pena usarlo, perché non c'era più nessuno. Quindi, cioè, lasciare l'apparecchio fuori e guastarsi, ho preferito lasciarmi gli apparecchi da battaglia fuori e basta. No, vabbè, forse è stato qualcuno di più, potrei approvare il contatto aggiuntivo, no? Ne avete di stoppa! Via Stefano, buonasera Stefano. Ebbene, il Stefano. Si va, è noioso. Te lo senti a Marco. Non mi sente Stefano, no? Cosa c'è? Dimmi tutto, troioso. Ah, ciao, ma scusi allora. Che sto venendo di fondo scala, certo che ti arrivi da scuola. Ma se sto usando 10 mm. Ehi, fottutini, arrivi di fondo scala, tutti fondo scala è arrivato. Troppo sporca, no? Ciao, ciao, buona serata a tutti, ciao. Non te ne andare, aspetta. MS, tutti a fondo scala siamo. Facendo il maniaco. Ciao Lu, buonasera anche a te. No, tu arrivi 5, mi arrivi 5 Luca. Vabbè, io sono piccolo e nero, io sto già andando un millifat. Tu sei un puttanato troioso. Mi aspetta, dato che si sente, ciao sei. Buonasera a voi. Come se non mi hai riconosciuto? Certo, io conosco a tutti, non ti preoccupare. Meglio così allora, dai, va bene. Riprendi Marco. Ciao Antonello, ciao Gio Maria, ciao Marco e Luca, e poi che se non lo so. Io dai, rimango nel Rix, a tutti quanti, buonasera. E io ciao, sì, comunque Rix, ci sentiamo dopo. Adesso sì, Gio Maria che arrivi in fondo scala, è barrato. Ah, vai, attacca, dov'è? È già chiuso. Ciao Stefano, buona serata, vai, ci fare. Luca! Vai, cuocuomale, sì Stefano, sei cuocuomale. E adesso ti risponde. Antonio, per me larga, la sei messa? No, non mi ricordo neanche come cavolo si fa, figurati. Lasciala così. Guarda, Gio Maria, ho sentito benissimo adesso. Adesso è in fondo scala. L'unico che non sente è Luca, ma se Luca si sposta non mi ricordo se era in cucina, in camera a letto, non lo so. Comunque arriva anche qua, non è un problema per quello. deve solo spostarsi con lo portatile e basta. Permesso. Allora, come si una vita in radio, non sai quando si mette le televisioni larghe e strette. A me mi piace metterla quando è stretta, non quando è larga. Quando non si fa la visione sessuale. Allora, perché sono un manico sessuale, insomma. Questo deve ancora... almeno se c'è forma di vita, no? Come è questa applicazione di sinistra, che poi è come il cielo, non cambia nulla. Si può fare anche canali più bassi, si può fare... ci sono canali pubblici più bassi, cini più bassi. Ma a Mitla che come questa applicazione, gratis o a pagamento? Ah beh, di questo non lo so, perché non mi interessa quella roba, a me, capito? E a Luca bisogna a chiederlo. Vediamo un po' Luca se ci illumina. Luca? Giovanni, dimmi. Senti a Marco cosa sta chiedendo. Dimmi Marco. Sì, Luca, stavo chiedendo, questa applicazione della Mitla per parlare con lo come Zello, simile, gratis, pagamento. Gratis. E poi ha copiato da Zello, può parlare con tutto il mondo, può creare un canale più basso, pubblico, solo le Luca, già c'è con questo, non è radio. Quindi stai parlando del cellulare, tanto, non sai. Vabbè, ma molto, non c'è nessuno qua, nel baracchino si va là, si fa due chiacchiere, ma alla fine io preferisco sempre via etere. Sempre sopra modulando, sa, quello, quella specie di Graziano. Oh, salutatemelo, che qua non abita, Per forza, perché sotto terra, Buona, si è. Si è. Aspetta, guffa. Hai visto cosa ha pescato, Giorgi Maria? Ehi, bello, ma ha mangiato te l'hai? No, a Natale me lo mangio, più di 3 kg e più ha pesato. Grazie, ma sei sceso, maschera e boccale o la bombola? Ah, piedi così a boccale e bombola, passeggi, niente, si attaccano un po' il passeggio. Tu hai detto che mi cadu giù, Gio Mario lì che fa un raggio, mi prima mi ha detto che mi cadu io come moglieri, avanti si gira affiliato a passeggio, Ma peccato è, c'era un passeggeri, chi ti prendi di passelle e mi si aggranca dall'anca. No, dimmi che si brottole, di la presa che sta lo baccato, e mute che c'è caglia che sta lo ibisso, mi lo baccato, mi ha detto chissà cosa. E allora? No, le orate le ho prese al mercato. Dici, mi ha giubilato, vedi, mi ho preso un figura. Beh, così è abbinato chissà, la saltrezza, buru. Senti, già di frotto, lei, Luca. Ormai già lo conosciamo a Graziano com'è. Comunque, dai, noi facciamo annoiare a Marco e c'è anche Antonello, Oh, Giovanni, vado in bagno, devo andare in bagno in questa, dopo. Giovanni, Graziano vale di là, noi non... Ha fatto il cocco. Perlomeno ne ho. Sono su così tu, via, Giovanni. Ma io non nascio, tu... Di là sono in banca, capirate le idee. Cannati, là. Noi come ci rosiremo, come ci salutate, ci ribiglia le lu. Ma l'importanza è che si sia in bocco a bocco, ma poi si ha fatto dei campani, capito? Noi non abbiamo Edu Viracchi e Oreri, Edu, capito? Ed Oreri. Ecco perché si può permettere quello e altro. Però, sai com'è? Però non mangia la sai sa cosa, che da voi quando lo mangi, intendi lo zocco e misura della glicemia. Già mi già faccio visto un paro corretto, lo faccio pure di San Pulliti. Ma è te, chi sei divertente, come te è bello del latte dolce tu. Ti fai vedere gli attrezzi, bello ci sono stati, mi noi fotografino le maniemo, mi diviro lui. noi mangiamo la cosa viva proprio, mangiamo, no le fotografie, noi non mangiamo fotografie. Convinti so, che noi mangiamo le fotografie, vabbè, lasciali fare, va. Dai, grazie, che tu mi dai sotto i mattoni. Tu ne rivochi una paletta e dirà loro rimani, no? Gruppo topico ne rivolgo, stamani alla pensione, come se mi la dati, mi la giurati, e la giurista ha visto la che impresa che ho fatto a ritornarli, è inutile che me li ha dati. Ah beh, dice lui si ha ritirato la tredicesima, ha ritirato lui. Ma alla fine mi la tredicesima. Si continua a pigliare questa roba così, lui. Beh, certo. Fatta giù tu, cosa che mi regali a Natale? Ma ha detto, già fatti da giù. Come di Natale l'ha fatti i regali. E ha detto che non va più di là. E te mi accontento di poco, me. Come se mi regali un centone. Il gentione. Aspetta, mica c'è anche Antonello, vediamo un po' Antonello. Dimmi tutto. Ma io che ti stanno trascurando questi qua, cazzo, di la tua Graziano, che ci fa vedere le fotografie invece mandarcela a casa a assaggiarlo come l'assaggia lui. Adesso che per comparsi il porcetto, Graziano, voi lo mette in foto, come ha fatto l'altra volta, gli fa anche il filmato, gli mette la mela in bocca, se lo mette la banana, hai capito? La voce romagna, in campagna, a Natale. Pomponia, mi senti? Bello caro. Veloce, sì. Senti già, perché sono con il portatile, ti sento un po'. Ti guarrei, ma immagino ti tiro fuori. Già ti tiro fuori anch'io, a voglia. Avanti, boioso. Per carità, cazzo. Oh, yeah. E poi porcetta lui non li piace, capito? Lui mangia le banane. Sì, e addrizza a me, oppa se le mangia dritte e dritte. No, a mezzo di maggio occupare di cervelletti, bella bella, non sai che io sono così riccato. E allora, lo metto la buccia della gioca, è delicato il giovane. Delicato è. Non sai che io mangio morbido, cosa buona, ma che arrivito, panati e frisci, limone e pappa. Comunque, Lucecchione, lei ha dito racconto, grazie. E mi devi dire la sessione. Chissà chi vuoi. Se vuoi te lo buco io, Lucecchione. Io ci sono un centone, non un cerchione. Senza raggi, io... No, le raggi di te, ma Luca Flippero. Ah, ma di shoppa. Allora, stamattina ho preso 100 euro, 2 da 50, nuovi, c'ho... Ah, preso questo pochetto, attilo. Fischi freschi. Mi avete stoppa. Sono così, non mi piacciono, vabbè, ne avrei voluti lo stesso. Anche a me mi date nuovi, di cantera di nuovi. Adesso sì, tanti a Luca. Via. Secondo voi si mette, arriva anche Luca. Posso? Prego. Scusate, mi devo allontanare che vado a preparare la pasta. Sì, lascio acceso, ciao. Via, d'accordo, buona preparazione di pasta giusta. Ciao Marco, salutami io, che la sento parecchio, Ehi, Gio Maria. Ciao Marco, mi copio, ti copio. Questa liquidità la devo trascinare fuori intanto. Sempre c'è quel problema della gamba, no? Della... come si chiama? Artrosi degenerativa delle anche, tutte e due. E finché non si opera non si risolve, dai. Ok. Già le do i saluti adesso, ok? Vado a cucinare. Ciao, a dopo. Ciao Marco, ci sentiamo. Grazie, ando a sopramodulare, lascia il tempo, cazzo. Prima di parlare, guarda un po', senti un po' se c'è qualcuno, cazzo, che sta parlando. Boh, lui. Catta, ma sempre... avvirbissiamo il suo dito. Non lo sento io, non l'ho sentito per niente. Vabbè, grazie, ha detto prima che non ti sentiva, Non ti senti, non mi sentite entrambi, ma con Pomponio mi ascolta a me. Marco sì, ma Pomponio no. Permesso. Attacco l'altro, là, riprendi. Attacco quello con l'altra antenna. Avanti, permesso. Ok, ciao Luca, buona serata. Buonasera Marco, che sta andando via. Buonasera Gian Maria e Graziano. Avanti, ma chi c'è quella parte là? Bacchi, buonasera, ben risentito. Tutto bene, sì? Tutto bene, Gian Maria, tutto bene. Tutto quello che va bene. Quello che va male lo facciamo andare male. Che importante che tutto sia perfetto. Ok, fa piacere, vai. Ok, Graziano sta sempre soframodulando, gatto. Bisogna andare a pensare il dito, vedrai che quel dito non lo usa più per metterla, per fare così fretta. Non sente chi sta, non aspetta che stanno parlando, per la patata. Vai Luca, dopo passi per Antonello. Sì, ciao Bacchi, salutoni. Antonello mi sente, riprendi tu Bacchi, fai girare per Antonello, poi per Graziano, va. E ok, salutiamo Antonello, lo salutato, chiedo scusa. Ciao Antonello, buona serata, avanti. Antonello. Antonello. Eia, dimmi. Perché ti sta chiamando Marchisio? Sì, lo ascolto. Purtroppo non arriva qua. Anche lui si è dimezzato, una volta arrivava bene. Oh, mamma, strano è. Ma Bacchi, portatele sì. No, sono con il coso, fisso. Mi sembra strano che non mi ascolti. Ho sbagliato capo. No. Aspetta quando posso, se ho sbagliato capo, non sia che se si muove sono due antenne. E abbia sbagliato collegando. Antonella, non mi ascolti per niente, neanche Pio Pio. Battisio, adesso qui arrivi, da Marco arrivi. Marco arriva, Antonello c'è la carta carbone guasta. Ma c'è qualcosa che non va da Antonello, perché lui è molto più alto di me, ma molto, molto, molto, eppure non sente quasi nessuno lì dalla zona, mi pare strano, molto strano. Io l'ho detto, Antonello serve un'antenna seria, non 10.000 antenne di recupero, un'antenna seria e nuova, è il cavo nuovo. Guarda che l'antenna già è seria, quella che si è usata. Il problema è che è portata a molte ore, quindi se potesse sentire tutti quelli che sono con l'antenna in gomma li ha date veloce. Secondo dove si vede adesso Bacchisio arriva a fondo scala. Beh, no Bacchisio, Giovanni arriva a fondo scala. Bacchisio non lo sento, Luca poco fa l'ho sentito, è arrivato segnale quasi 9. A secondo dove si mette in posizione, ascolto tutti, capito? Basta agganciare l'antenna esterna anche loro, io li ascolto, tutto lì, sono in alto, ascolto a tutti. Io l'antenna puntata adesso dove c'è il ripetitore, quindi, se dovessi spostarla verso Polotone, se lo becca di pieno. Orientarsi, viene male orientarla tipo la Terrolce, il monte, no? Ah, poi dimmi una cosa, la tua direttiva cos'è? Polarizzazione orizzontale o verticale? Verticale l'ho messo. Ah, ok. No, se no, se è orizzontale lo sai che c'è un disaccoppiamento di quanti di B20, no? Non me ne intendo. Va bene, a dopo, ciao, dai. Sto buttando la pasta, ciao. Sì, buona votazione di pasta. E in seguito, quando c'è un po' di soldi, mi tiro la direttiva, quella che ci avete i 25 elementi. Comunque, la stai tranquillo. Messa in orizzontale col motore dove punti ascolti anche la zona di cosa della Liguria. Io ti sento bene, sei a fondo scala qua, vabbè, c'ho l'antenna esterna io adesso, poco fa con lo gommino quasi non mi sentivi, così esatto, sì, con gommino Graziano se si mette in una posizione buona lo sento benissimo. E a Luca altrettanto, solo che se sono in un'altra camera non li sento per niente, capito? A Stefano sento bene, a Marco altrettanto, a te altrettanto, gli unici che non lo ascolto sono Luca e Graziano qualche volta quando si sposta. Ok, Graziano sta mettendo l'altra pericola, l'antenna SR. solo Luca c'è che non ha, no, no, Luca non lo senti. Vediamo un po', Graziano. Ehi, sono andato a prenderlo che ce lo salò. Va bene, allora riprenditi intanto con Battisio, un attimino che sto scusando il telefono. Luca, riprendi tu. Vabbè, comunque a Battista non mi interessa, no, va bene, si mi sente, chi mi sente, se no pazienza, là. No, anch'io mi assento, ma chi riprendi tu, ci sentiamo dopo, una ventina di minuti, massimo mezz'ora, riprendo, dai. Ok, senz'altro Luca, sentiamolo, lasciamo buona questa greca. Kelly, che salute, avanti. Antonio, buonasera anche a te. Bene, mi ascolti, sì, Emmo, no. Tu, mi assento, dai, 20 minuti a frappè. Va bene Luca, siamo qua. E c'è Graziano, Antonio Pomponio, e c'è Maria al telefono adesso. Riprendi, chiama Antonello se ti ascolta. Eccoci qua. Ah, Gianmaria è rientrato, c'è Antonio Gianmaria. E chi è che è entrato? Antonio, Antonio, il vicino di casa tua. Ah, ti avanti, sono qua. Ehi, si sa anche a me, per forza ti sento bene. C'è a fianco. Comunque va bene, per me va bene perché siamo vicini, capito? Adesso sei a Pomponio, ti arrivi da Pomponio, anche lei lo senti Antonio? No, va a fare un passaggio Antonio. Fatto prova che ti avevo se ti senti, non ti senti. Allora voi l'antenna, la 50, la vuoi a tu. È nuova, nuova, amici, ho il magazzino. E VU! No, sono un metro e qualche cosa. Esatto, ci devi vedere per quella fusione, eventualmente vediamo un po' altro. Dai, capito. Va bene, ok. Allora c'è il Marchisio. Allora c'è la voce Marchie. Non te la sei guardi la voce, io. Adesso che ha rubito, so come fa mai la ora, io Marì. Mal di gola, ca. Perché quando parla Luca devo abbassare, quando parli tu devo aumentare. Vediamo un po' Graziano se l'ha preso da dentro l'armadio. Scoprilo bene di Graziano, ancora non l'ha preso, sta scoprendo perché era un freddo quell'apparecchio dell'armadio. Gatta Luca! Sentato c'è Luca un attimo, è andato a fare una commissione, viene subito. Aspetta, mi sento 5 minuti che cambio antenna, Gian Maria, a vedere un po' se migliora o peggiora. Va bene, vai. Va benissimo. Allora, tu. Dici qualcosa di bello, io. Quello piccolo, piccolino, e altro lo faccio vedere io, che ce l'ho preciso. No, te ne faccio vedere uno io, dai, altro. E almeno sai com'è. Ma il computer acceso ce l'hai? No, lo puoi vedere anche il telefonino. Vabbè, ma è sempre meglio in frequenza, no, va bene, Antu, dai. Ah? Ho capito, Antu, alza la voce che ha. Ho detto, se te l'hai messo l'applicazione nuova. No, non mi interessa a me quello lì, altro. Oi, Reminiva, mi devo mattare un capo, ma... Dai, parlo tramite Ettore che è più bello, dai, a me mi soddisfa di più qua. Là non mi soddisfa, per cui è abbastanza saggio, ma di capo, buonissimo, lo saranno. Non è per me quella roba. Dillo la roba a chi? Bravo, bravo. Allora, cazzo, oh, yeah. Tutta altra cosa a parlare qua. Qua è FIFA, è onda radio che viaggia in aria, capito? Lì, mamma mia, io ho tolto Zello, avevo tolto Skype, tutto avevo tolto. Anche WhatsApp avevo tolto, però per necessità l'avevo tolto. Oh, l'acqua non vuole più, eh. È tutto un'altra cosa, altro, e tu ce l'hai così, ce l'hai messo. Tu vuoi caricarla, la bruttina. Vabbè, ma ti interessa? A me proprio, sinceramente, non, se non l'avrei avuta l'obbligo oggi, ma anni fa, ecco, per cui non non mi va, ecco, non mi va, e per cui magari a voi vi piace e ve lo tenete. E a te Marco, allora non ti va pure così? No, no. Tempo fa avevo detto che la stessa identica cosa, i canali, puoi andare sui canali pubblici, canali semi privati, puoi creare un canale tuo privato, semi privato, pubblico, come vuoi, solo che non c'ho il microfono in mano, in poche parole, non mi piace. Poi esiste anche il microfono per zero, lo vendono il microfono per zero, sia col cavo sia senza cavo, wireless, no, senza il cavo. Però qua c'è più audience, capito? C'è gente all'ascolto, è più bello, ci sono anche ascoltoni, capito? È un altro mondo, dai. Quello è computer, questo è radio, poco da fare c'è. Ma va bene qua, a me ripeto, sono qua e qua rimango. E per cui mi sa bene così, ecco, tu poi a chi interessa è meglio che li usi, ecco. Ma chi io? Eccomi qua. Allora, ha messo l'antenna grande? Ho messo l'antenna piccola, ho diminuito l'antenna, la piccolina, cioè, sto andando con la piccola. Ma ti senti abbastanza bene, vediamo un po' se ti sente Marco. Marco, sentiamo a chi sei? No, allora, prima lo sentivo, adesso non lo sento, sento il QRM, sento che parlano ma non arriva. Ma chi, visto? Allora è meglio l'altra, Prima ti sentiva, adesso non si... no, non ti sente. Mettiamo l'altra, mettiamo l'antenna grande allora, la piccolina non va. E ma è questione di umidità, perché questa piccola funzionava con un gioiello. Oggi non era voglia, sto facendo sciopero, e noi gli mettiamo l'antenna grande. Oh, da me il segnale è buono, però è la radio è strana proprio, Marco che è molto lontano, ma arriva, come radio arriva fortissimo, ma tu nemmeno la metà di quella radio di Marco, Che apparato è? Non lo so, ma chi? Io, 898. Non lo conosco, no, sai perché? Allora, io ho avuto un fuxing, chiamato fuxing, no? Cinese, avevo una radio bassissima. Tutti i fuxing avevano una radio bassissima e l'ho dovuto dare, era inutilizzabile. Questo è un Lexon, cosa, 898. Ah, sì, Lexon lo conosco, sì. No, quello era un portatile, ma la radio era bassa del fuxing, era un problema. Invece se usavi il microfono esterno, come questo che sto usando adesso, il microfonino altoparlante, allora usciva bene. No, questo è il microfono esterno. Sì, però il microfono interno era terribile. Sì, lo conosco quello. E ha un prezzo anche vantaggioso, lo trovi adesso. Solo che io, per la radio, Gio Maria, non sono detto a tutti, io per le radio non spendo più niente, nemmeno un euro. Ho finito di comprare radio e accessori, ho finito, uso quelle che ho giustamente, perché è inutile, come se un baracchino nuovo, comprare il baracchino nuovo e non venisci uno. Evidentemente tanto non ti sente, forse non ti sente nemmeno io a comprare, ma scusa, se sto vendendo tutto Marco, anch'io non ho, ma me ne lascio uno solo e basta, cioè, te le fai qui. No, sto vendendo tutto anch'io, intanto non mi va più, ecco, per cui a uno lo faccio fuori e per cui sempre che riesca a farli fuori, perché neanche non c'è commercio, per cui non le vuole nessuno, per cui tenersi, metterlo nell'armadio o qualche vetrina e ogni tanto se lo guardi e va bene ugualmente. Ecco! Ehi, salutami Bombolo, Gio Maria, che qua è zero, non arriva. Sento che parla ma non arriva. Buonasera, ciao Marco! Prova Antonio? Di lusso, adesso arrivi, cosa hai fatto? Io. Segnale naturalmente non è fortissimo, però almeno ti sento qua. Ok, dai, riprendete che l'acqua bolle, dai. Ok, aspetta che c'è quella specie di bello bello. che è dietro a Bacchisio, avanti, meno bene. Passerà a circolare, ciao Marco, ciao Bacchisio, che è il resto non lo so chi è. Avanti Marco, se mi occupi. Marco si è allontanato. Marco si è allontanato, rientra subito. Mica c'è Bacchisio allora. Antonio Bombolo. Il sottoscritto è Antonello Pomponio, ci dovrebbe essere. Papà, ciao Antonio Bombolo. Avanti Antonella, ci sei Pomponia. Ciao Graziano, adesso arrivi, passo ma arrivi. Adesso ti sento, ma sì, non mi ha già sentito pure. Cosa sei con il gommino? Negativo, esterna. Anche io ce l'ho esterna, strano, ti sento basso. Ma la mia è al piano terra, Graziano. Ah no, la mia è in alto. KK, vabbè, già ti sento. L'ha messo sul satellite l'altra di Graziano, o Marco. È attaccata al satellite che hanno mandato a Marte. Forse sono sopravvolati. Marco, Graziano c'ha l'antenna sul satellite attaccata a quello che è arrivato a Marte. Capito? Ecco perché arriva da te. Figa, e la mia è fuori ma è al piano terra, corrisponde al piano terra. E poi voi siete coperti, io c'ho il vero libera, ma voi siete completamente chiusi. Ok, dai che l'acqua bolle, dai, a dopo, ciao. D'accordo. Vai Bacchi. Ehi, ehi, ciao Graziano, buona serata. No, c'è Gianmarino. Graziano è collegato con l'antenna che c'è a Cagliari, quella che collega il satellite. È collegato con quella, per quello che adesso lasciato bene. E allora per quello è. E lui possiede tutto e per cui la sua autorizzazione l'ha piazzata lì, capito? Vero Graziano? Allora, già lo credo giallo. E beh, cosa hai piantato? Cucù Mariucci. Però... già ti sentiamo ugualmente. Ti stai esaltando, per me che sei pericoloso, Graziano, c'è che ti, se ti astiri troppo, la pressione si solleva, parla piano piano, con la calma. Io, zucchini è piantato, e gli assoboni, e non hai messo fave. Anche le fave ho piantato, Graziano, anche le fave ho piantato, quest'anno abbiamo le fave, fave piccoli in abbondanza. Simone, cazzo fanno una bocca, baro, io mi la sbigliata stamani, bella proprio appena tagliata da un amico mio. Va bene, avanti Antonello. Antonello non intende nessuno, solo la Gianmaria intende. Antonello si è persi la bufera. Se sciacquando la bocca, se aveva la bocca asciutta, allora se la sciacquando, capi? Se la sta rinfrescando. Vai Antonio Bombolo. No. Non ne usa di quella roba lui, capito? Lui non ne usa. È diventato astemio. Col naso però, Per cui, però Graziano. Allora, ma... E Luca, ma come ne è andato? A mangiare, dice che ci aveva una mezza teglia di pasta a forno, e per cui si sa da fare, dai, la vuoi terminare stanotte? È fissato, con la birra, vero Luca, finito hai, la bocca piena vuole parlare lui, capito Graziano? No, oggi niente primo, solo secondi. Solo secondi? Sicuro che sì. Io, oggi niente primo, solo secondo, e buh. E forse ci ha mangiato un po' di 3 kg arrocchi, l'hai mangiato, della lugrivia, e come te l'hai fatto? Hai salata o come te l'arrucco l'hai fatto? No, io ce lo devo fare a nadare, me lo posso in forro con un battato, allora cosa esce? Un burro, lo pongo con un capo centrale in mezzo alla teglia, li tiro volanti, vi ribigia che sono troppo lunghi. Vabbè, pongo giusto un condimento, Oh, è un battato, allora cosa esce? Un burro! Pigli un acqua, no! Pigli un acqua, ma ripeti, no! Lo filo in giro, filo fa il tondo, il tondo, no! In modo questo, io sopra il battato, e so che è il tondo, il tondo, tranquillo, capito? Da poi pigli due buchetti, lo giri sotto e sopra, così che da poi lo taglia a pezzi, capito? No, che con le zampette che posso la treccia, posso le trecce, posso. Te. Bacchi, un cosa ho avuto il macchio oggi, come ti chiamano? Chiata, chi pecca le cose, le motocarretti? Baleni ha comprato, ma che balena ha comprato allora? Bacchi, un biliardo, a mari, Bacchi! Con i tentacoli lunghi 3 metri! Sì, allora è una cosa di lusso! Sì, l'hanno mandato la foto, pure a Gian Maria l'hanno mandata! Canta mia moglie e manno! Siamo! Così è, grazie per l'ascolto! Grazie! Io che appoggio la mia cassa mettendo la portata! Ma che ha parlato? Mi sono detto che ha mandato, boh! Stanno mettendo la portata quando parlo io, capito? C'era un altro che stava parlando sopra di te e noi ci dimentichi di tu! Non ci sono nessuno! Allora, hai capito, ma chi? Le vostre la treccia, le vostre le zampette. Sì, ma come te le fai le zampette? Al russo o bulliti? Se porro con un passato, le vostre, è un bel giù, Allora tocca a maduro. Ah, con un passato, mi diceva lì, con un passato mi fa, sono stamagnato da Graziano. Grazie. Quando lo buca in salata, amici, su, andai così, quello è proprio saporitissimo. Lo fai, ohia. Allora che cosa, una più mano di una balena? Una biopra, sta giù di tutto, quando una biopra è una biopra. Gian Maria, cosa ne dici tu? Aspetta che no, andate che se lo fate, chissà. Non so chi, poi fate vedere le fotografie, capito? Invece di essere le mando un pezzo a assaggiare agli amici, gatto. Gattizio si è pigliato l'ubizio come te il bello dell'arte dolce, gatto. Ti manda le fotografie, però la roba se la mangia Edu, capito? Ma noi ritacchiamo l'obiettivo e non dobbiamo entrare la foto e chi foto non ne mangiamo noi, ma chi? Di virus. Noi non ne mangiamo, mangiamo la cosa naturale, no? La fotografia a nome la mangiano, o no, ma chi? Sì, infatti, ma prima della fotografia dice così come a tecciarsi e mangiano più poco da poi a chi c'ho già pieno della fotografia. Ma Graziano va a fare i cani, non hai bisogno di avvisarlo. Così all'improvviso bisogna andare. E allora, tu cosa ne pensi? Dico la fotografia, ti decci talmente tanto che non ti piace più la bui. Dillo tu, Bacchi, e tu già te ne intendi. Non intendo nulla io sono in campagna, gioco di casa. Mamma mia, mamma mia. Ma così è! Atto la volta, Baromia, che sei terra a terra, però mette in faccia a qualcuno, no? Atto la volta! E ha giudizio! Mamma mia, adesso continui di voi, io sono scendendomi la roba. Ecco, adesso ti ho sentito perfettamente, così va bene. Capito mia, è bello bene, non ne mandare fotografie, che noi, ripeto, non ne mangiamo fotografie. Fotografie fa vedere a se persone, non a noi. Ma chi se fa dati un anticipo e fa farsi vedere che chi sa di invece aveva proprio, infatti la vedi non l'ha più gana. Ma che noi ce l'abbiamo mattesimi, noi ce l'abbiamo mattesimi, non che ti mandi, sì, noi non ce ne possiamo vedere queste cose, anche se ti viene l'appetito a te, capito? E tu non li vuoi mangiare e noi non ce ne possiamo vedere, non che tu vai vedere a noi e può darsi che ti fai l'impressione mentre fai da te pure, dici che non li manda. Ma così manda la piovra non vi dai tu, Ma chi? Non le posso fare, le piene la lave su Graziano, cazzo. Graziano non sa cosa fanno più, Graziano mi faccio peperoncino io, mi. Sì, adesso tu non hai un peperoncino, non hai un fiotto, non hai un imbarazzo, non vi lascio, pure in più, non vi lascio. Ma dimmi una cosa, è torre senza motore, non si è sentito. O è per la reggi. E mi pare la giù vicino alla zona 2 in bicicletta, con un casco e in botti luccicanti, e in giro in bicicletta e la zona 2. E tutti che passano lì, vi sono quattro cani di chi si pitti, buono, sono rotto, vai. Ognuno che passa, pensi che nelle macchine le pigliano a mozzo le macchine. Ma si passa a piedi e in bicicletta, te li tratta non manca un braccio. Oh, che si è spostato la specie di profumo, che rigare non si avvicinano, capito? Abbaiano, però non si avvicinano, che hanno paura. E poi si è spostato il profumo, ecco perché in questa zona, per far lontanare gli animali che vi sono. Allora, le bigliate, uno di chi si guarda, che stanno sempre vivi, la lasciate in aria, roba di 10 volte, e di mezzo lo mangiano vivo. Ma guarda da voi, ce l'hanno fatto il capo. Se non ce ne hanno mai nella morte, un pezzo barometro. Bacchi, intendi, intendi. Chi sono le console, la retroguardia, Chi ci sono la sovrata cielo sopra, sia così è. No, non sono cani di gente di qua. Li venini, dalla Bacchi. Di un trenino, da questa zona ne veni. Ma poi mia moglie mi ha detto che l'ha visto vicino, vicino un coso di un comune, pure i chivi, la Natalezza, pure un'infera, che su cose di italiani non mettono una ridosi, c'erano anche in quei giardini quei cani. I chivi si è appiattanata, andando verso il trenino. È un recinto, vi sono i cani Trento. Ma chi si venne quasi ognati di notte, di manzano, prima li vedeva spesso la notte. Allora venne a cacciare orario di tutti e quattro impari. Venne un etto, due marrocchi, un collare bianco, un goccio bianco, vani, e uno bianco bianco. Beh, un piombino, lo vuoi, te lo dopo. Se mi viene un attimo a me, no, che ve lo posso vedere io, che non mi viene di più questi. Poi sono troppo lontani, vicino alla cura, capito? La faniera lì, no, che dobbiamo fare, sono stai no, che ti grattano al cielo, ma per la gente non fa via, se no per avere davvero tanto. Sì, che cosa, la brutta perforante di lui, diceva che l'acciaio e la plastica. Che si andano le vene? Sì, già lo so, ma se c'è gente non ti puoi punire, vedi che non si sono pericolosi questi cani, chissà di cazzo, ma a me mi ha detto che sono sempre in pari e rimangono i vicini chivi a un trenino, dove c'è il supermercato, di lì. Sì, ma ci passo io, vedi si fai mani. Ma capito, è come una carica, è buco. Sì, la casera, nel bicicletto, la macchina della polizia, gli dice, ci puniamo ad ananze a pulca. Fa fatto in mano la macchina a parazzini. Ma te ne immagini? Coraggioso, so. Giammarini, che cosa bisogna fare? Andare con quella piccola o con un fusile? Ma basta lo senza Battista, siccome la tua c'hai la voce troppo alta, la grazia, cazzo, io che ho messo a abbassare i voci, signora, capito? Sicchetto questa abbattendi, perché parla piano Graziano, già ti sentiamo con la mente, siamo a due passi gatti qua. Oh, va bene, fai la voce troppo alta, però se tu parli più piano ti sentiamo con la mente, allora magari non io devo abbassare quando risponde, ma chi io non intendo, ecco come c'è la partenza. Avanti, ma chi che stavi dicendo? Maestro, bisogna andare lì, nella zona di Graziano, o con il fucile o con la pistola. Ehi, Reggio, ma sai la cosa, sapete Graziano? C'è altre gente che devono andare per la guerra, devono andare a Rubia e Ceramo. Cazzo, se pure di tutte le attrezzi, vabbè in guerra. E Rambo devi far Rambo, Graziano. Allora, ecco tu lo sai. Che è Rambo? Che deve fare, deve andare per la guerra, Graziano. Allora, amico Graziano, guarda che facci. Ah, ma non l'hai visto oggi in giornale? Il sacco di vecchio, la polizia non è bizzicato due di chi si è stracomunitari e in passa da via lì, tre chili di ovuli pieni di droga, di acci, si è buttato a respirare, l'hanno fatto, quindi l'hanno fatto in varà, tre chili di merce va via lì. Oh, è un di busciacca? Tanto in panza. Addirittura? vabbè, allora infatti, ma poter passare, fate il sindrabaglio, ma pare che abbia una s'attrezzo, infatti, la mette, le metto il s'attrezzo in panza e sale si fa droga oppure no. Mani, si l'ha buttata a ripidare, l'ha levato la radiografia e va via lì, la panza piena di ufoli. L'hanno fatto i cresceri e ne l'hanno fatti farà, ma è compreso. Da poi l'hanno lavato il ciuccio, l'hanno pisato 3 kg di merce, va via, ne in due, ne un chilo e mezzo, ma l'uomo non aveva ne 30 lire alla banza. Ma chi? E così si fa se le denami, grazie a, le denami si fa se ne così, trasportando roba 30 alla banza. Sì, ma non sai se pago poco, si crema uno di questi cose in panza, le bene di bene che crema. Altro che così si fa, le è andata male, sicuramente l'hanno fatto la di là, ma l'hanno investigato in sassa di vecchi. Mi è più riservata la roba. E vecchio che giocano con lo yacht, il crofeliero, 11 tonnellate in via. Quel valiero di signorone, avanzo trattenne Buruvici, quello l'ho visto ieri al telegiornale. Un attimo, grazie a lei, devo chiudere che c'è gente. Dai, ne approfitto, chiudo, vai. Ci sentiamo, sono stato in casa, mi raccomando, se vuoi, poi non mangiarti tutta l'altra voce. Ciao, Bacchi, ci sentiamo, ciao a tu. Fatti sentire, fatti vedere, per cui anche domani. Dai, ci sentiamo, dai. Riprendi, grazie a Chido che c'è gente. Buon proseguimento. Va bene, ciao Gianmaria. Alla prossima, vai, bombo. Ciao Gianmaria, ci sentiamo alle prossime. Yeah, ciao Gianmaria, buona serata, sono in casa. A domani ci coincide. Buonanotte ancora. Affitto hai, grazie. Nessuno ci fanno così. Col veliero, mica, 11 tonnellate in via. E il pescato felice domani, se no 11 tonnellate di roba si fa a fondo. Un bacio di nai chi vive, magari questa volta le è andata male a chisso e l'ha caricato un burro di più, se ne l'ha andata a me invece l'hanno buttito. Ma chi vive la carogna, chi vi aveva fatto qualche soffiata, se no lo ceppava, qualche soffiata c'era. Vabbè, e allora chi mi cacca tirata, magari chi mi l'hanno fatto bassa chissà, dall'altra parte ne è passato un triplo, tranquilli, ma così bombo. Un po' grompi, certo, ma quando hanno bucato questa cosa, si rimpanta, e appunto. Sì, si ingotti di questi opuli. si ringotti, si viene nella bassa e da voi immagini si passano che hanno fortuna andare a coprirsi fa le macchie. Se non è bene, prima mi guardavo il programma al televisore e adesso non mi ricordo dove era quella città. All'aeroporto li visitavano, quando ci avevano sospetto li beccavano in Trento, li facevano, li visitavano tutti, li controllavano, adesso li visitavano con merce in panza, un bene. Io manco un'idea, ma riprendi i bacchi, è pure che fino a fatto, non si è sentito. Un patito in bocca vai. Cosa vai? Un patito in bocca vai, io mi soffro. Ah! Un patito in bocca vai, gatta. No, è il microfono così questo. Come si sente? Fai un patato in bocca, gatta. Il tipo del microfono è fatto così, è il suo, è l'originale. E cosa vuoi fare? Non mi tarizza. È vero. Allora, la volta mi pongo a purugiare pure un whisky, mi manco male idea, così rimane. E lui, sono entrato e lui. E vabbè. Cosa mangiamo adesso? Vedi, ma oggi tu? No, negativo. Stavo facendo cosa? Quando Flavio, le lasagne di mezzogiorno. Bravo, ma già ho mangiato pasta al forno, è vero. No, ma stavo facendo la doccia, grazie. Paura. Riprendi i bacchi. Io se facevo la doccia, Luca. Si prendeva, rimane non finire. Oggi in palipisia. Ero una la doccia. Comunque già due sere che se ne va l'acqua, rimane romantici, roba la macchina. Ma se tu si stacca lo scalda a bagno, o se da vedi si brucia senza riva. E me la posso la voce alla ghita la doccia, capito? Beh, se non fai nulla cosa ti la fai, ma va nessuna. Che se si va a qua uno che travaglia? Beh, scusa, mica assurdo, una volta alla settimana va bene. Dipende, che una al mese me la faccio due volte. Lo parleremo, da tre volte alla settimana andava, cazzo una volta al mese. Due volte, Catagrazia, tre volte alla settimana, esagerato. No, io fai un mese tre volte, dai. Ma se te c'è un rigotto sotto, diglielo tu, Bacchi. E rimane si poteva fare la doccia, che l'eva era colorata, non conosci negro, oppure era bronzato, mentre vuoi tu. Era marrone l'eva rimane la sera, quando è ripita. No, noi scendiamo a Chirana, marrone rosso, pariani terra dei refrattari, di cotto, va. Che faccio? Se ne senza ancora. Fate più o meno due figli, ma la palla in bagno, ma non sta attaccando l'autoclave. Ma stavano la giornata di vela, lo sottofondo mezzo centimetro di terra. Dentro scala in bagno va piano di terra. Per quanto il rosso sei entrato, la salita di Romatessi, Armani di Romatessi, e dunque siamo a posto di fango. Siamo pagando lo fango, siamo pagando, non leva. Miserabile, lei l'ha già pagata pure oggi, chiamale, 168 euro, anni di carriera le voglia, ne ha baroa. Ma fai le panoa tu fai le panoa, noi invece avevamo le papiccia. Sì, un raggio mi deve che farà, ma passa a pagare, il sera da qui. Fa schifo, ma così l'altra deve comprare, fa la parte, non sai se ti lavi, se sei brutto. Che recuperarla, se no non puoi né cucinare né lavarti la faccia. Avanti, Antonio. Che mi ha messo tutto, che tu sei tu. Di pagavira, a dentro a rumessi, che vengono in cicche, ma che si leva due volte. Devi lavare purtroppo, perché sei stato in travagliente. Trocati non ne ha fatti nulla. Allora l'hai vista la settimana scorsa a Porto Torres, che colore era, che c'era anche su internet. Marro, proprio marro, fango. E anche i nomi come sera. Chissà cosa guarda il suo scaldabagno. Ma poi quando ne vede, quando cioè, come si dice, ha notato a rivirare, a chi si fa girare un puntatore, che sono cose in più, segna di più il puntatore, che ne vengono in cicche a balla. Ma cosa era la leva, culori, era di marrò? Marrò era, e già lo so che ha un po' palaria, è logico che va a girare un puntatore, non mi attenzi. Luca, riprendi. Casino, quando è sporca, poi conviene chiuderlo se l'acqua calda, l'acqua fredda. Lo chiudi, così non entra l'acqua sporca. Adesso ti rovino lo stato da bagno. La melma si è attaccata a cantare al riservatoio. Però io dico, questi ci danno acqua sporca, non puoi manco usarla per cucinare. È un casino, dimmi di maladimi, non ti napizzi subito, con il tempo, perché magari anche quando lavi le verdure, la frutta, non andava, cioè no, ti devo dare l'acqua, non dico da bere la roba, per insomma, per lavare la frutta, la verdura, per cucinare la pasta, non andava manco a cucinare la minestra, noi usiamo quella delle bottiglie dell'Eurospin. Ma vabbè, che cosa ne sai, cosa cani, cagirmi bene in mezzo a questa bucaria. Settimana fa va un fiago, mi arriva la vergogna, evito di lavarmi la faccia io, con chi sei, mamma di Mazzani, a che ti vengono i rumori tu. Lo so, però bacchi. Ma chi si è detto la calafiore, ci si è varato. Chi è che si sono parato e sono cassato nel gioco? Aiuto, mi lanciato a te! Parla tu adesso! E alza la voce che sei rimasto e matto sotto terra! Ehi, io! Grazie a te, carico, che si pugnisce la radio in linea! A bada che c'è linea, linetti! Oh, andiamo per le mele, là! Io devo scappare, devo fare una questa greca, va, mi sono cammentato alle 7:30 via l'appuntamento. Ma guarda, ha già paito per tutto, se no ci passava pure l'ora. Bene, chiedo scusa di permesso. Ciao Graziano, buona serata, saluto la signora. Ciao anche a Luca, salutissimi. E anche Antonio, buona serata ancora a tutte e tre, buon questione. Ciao bene, ciao Battiglio, buon proseguimento di serata, ce la risentiamo alla prossima se coincide. Ciao, vai Luca. Ciao Battiglio, saluto. Luca. E ok, ciao a tutte e tre ancora, buona serata. Oh, c'è anche Pomponio, ma non mi senti a me. Pomponio, mi senti? Sì, ho cambiato antenna adesso. E vai, lì sì, si sa, chi su si sta in cudiddu? Non la pulla di la birra, no. La damigiola di la birra, chi sei con la bombetta? Fai città che saluta Pomponio. Antonello, buona serata, ciao, al prossimo. Sì, ciao Battico, lei ci ah, ciao, Antonello, ci sei, Pomponia, brutto pesco. Aspetta un attimo, grazie, ci sta parlando tuo, parli sopra, aspetta. Avanti Antonello, forse non ti sente Graziano. Sì, Graziano è l'unico che non sento adesso. A te ti ascolto, sono per la verticale. Ascolto anche a Bacchiglio, roba che non aspettavo poco fa. Antonio non lo sento per niente. E a Bombolo lo senti? No, niente, non arriva nulla a Antonio Bombolo. E basta, capito, quindi è l'ultimo che non lo sento. Luca, sto accendo, io non lo sento, sto accendo malissimo, non si sente. No, io l'ascolto bene, è un po' frusciato, arriva. Con un po' di QRM sotto, ma lo sento. Anto, lo senti a pompugno? Negativo, no, non lo sento per niente. Tanto lo senti va bene io con questo, sono con l'antenna del fuori a Valentino Mari. Aspetta, grazie un attimo, mamma mia, dito veloce, sì. Dove sei Antu? A casa sono. Ah, penso che il negozio. Ho capito. Vabbè, io ascolto, dai. Prima non mi sentivo a lui, adesso dice che ha messo la verticale che mi sente. Non lo so, strano però, grazie, che tu c'hai l'antenna fuori, non lo senti, boh. No, non lo sento, no, lo sento malissimo, ma male, mi tutto rumore e niente arrosto. Allora mi dovete chiamare torre di controllo a me. Lui. Vieni a vedere cosa ha combinato, che come mai non lo sento. Boh, sempre particelli il caso. Pucaccioni. Chi è che vuole entrare avanti? Forse c'era qualcuno che voleva entrare. Tu quanto bene mi ascolti? Attenzione, se sentite Giuseppe che fa chiamata. Avanti Giuseppe. Ciao Lu, buonasera, buonasera a tutti. Non so chi ci sia, ma ben sentiti tutti quanti. Ciao Giuseppe, in compagnia mia, grazie allo Guffo, Antonio Bombolo e Pomponio, dai, avanti, grazie, lo senta Giuseppe. Ehi, Acappa, ciao, ben sentito Giuseppe, buonasera, ti rilancio a Bombolo. Ehi, Acappa, ciao Giuseppe, mi senti lì? Forte e chiaro, ciao Anto, ciao Guffo. C'è anche Pomponio, lo senti a Giuseppe, Pomponio? Pompu, lo senti a Giuseppe? Eh? Lo senti a Giuseppe? Boh, mi sa che non manco io lo sento più adesso. E beh, Giuseppe, dove sei? A casa, Lu. Ho acceso adesso, e vedo se c'è qualcuno. Vabbè, adesso non siamo sempre qua, ma ogni tanto. Ma là non ci abiti più, no? No, negativo. Sono qui fronte Sassari 2, Lu. Ah, ho capito. E l'antenna là è rimasta? Eia, non ci sono salito manco se mi pagavano a peso d'oro a prendere quell'antenna su quel tetto. Perché Giuseppe? Oh, io, un casotto, dovevi spostare tegole, dovevi rimanere in equilibrio su un filino di cose. Guarda, non mi voglio ricordare quando l'ho piazzata. Che cazzo? Cioè, così difficile salire lì, vabbè. Parapetto mi sa che non ce n'è. No, negativo, niente parapetto e non ne valeva la candela a portar giù quell'antenna. Poi mi già l'ha visto anche Antonio. Antonio, digli com'era la situazione lì. Mamma mia, non me lo voglio manco a metà. Oia. Adesso cosa si fa di più in fretta? Qualcuno mantiene un tubo, una molesta, tra. Forse è l'unica, era. Forse è l'unica. Chi è che vuole entrare avanti? A voglia, forte chiasso. Ciao Pierpa. Forte e chiaro in questa zona. Ehi, già ti ascolto. Aspettate però che prendo l'altra radio che è senza il bip, magari vi stressa. No, niente. E tu dove sei Pierpa? Cado lo stesso. Arrivi più forte di Antonio tu, Arrivi più forte, Antonio arriva forte, sì. Un po' diciamo disturbato dal QRM sotto, tu arrivi proprio bene. Comunque già arrivate bene tutti e due, solo che tu arrivi pulito, dai. Antonio è un po' poco frusciato sotto. Oh tu, dammi un secondo la radio, che ecco l'ho cambiata. Prova a vedere lì. Adesso sì, Anto. Perché ero un'altra stampa. Adesso sei come tuo padre. Cioè, il tuo padre è un altro tipo di timbrica, tu ce l'hai più, diciamo, più squillante come radio. faccio la sua e a meno accustimi. Ragazzi, io chiuso, ce la risentiamo. Saluto in circolare a tutti. Ciao ciao, riprendi lui. E io ciao, grazie, dai, buonasera, buon tutto, alle prossime. Vai, riprendi tu, adesso poi arrivata Giuseppe. Ciao, grazie, ci sentiamo presto, dai. Buona serata, avanti Pierpa. Ciao. A me lo date un controllo su quest'altra radio? Questa è quella senza il VIP, così non vi buca la calvedera. Allora ti ascolto segnale 9 Giuseppe, dai, la radio è un po'. Se ti ascolto bene, dai, non ci sono problemi, non so come ti ascoltano loro, avanti per qua. Aspetta un po' che adesso sono qui dentro in cucina, prendiamo l'altro. Adesso che mi senti? Questa è quella che ti stavo dicendo stasera, quella là, quella che ha i cosi, i tasti come la tua. Eccomi. Eccomi qua. Quindi adesso ci sentiamo anche in PMR. Andare. E beh Giuseppe, pure il camper l'hai venduto? No Lu, ancora no, se non mi danno quello che chiedo non lo do. Ho capito, voglio una cosa a regalo. Ah sì, guarda, un sacco di gente, cavolo bello, nuovo, a 58.000 chilometri Lu. Poi è nuovo, è tutto in automatico, non devi far nulla. E come sentono il prezzo? Sì, da voi ti chiamano, ma è trattabile, ma vaffanculo. Quanto lo stavi dando Giuseppe, non mi ricordo. Allora, di listino, oggi come oggi, è quotato 25, però anche 23, se una persona che mi ispira, che lo tratta bene, lo do. Ma già l'ho visto che è fiammante, vabbè. Perché quanto ti hanno offerto Giuseppe? C'era questo qua da 20, è venuto col figlio, 21 sull'altro. Ho detto quando procuri gli altri tre ci vediamo. No, ma non lo do Lu, gomme nuove, le ho tutte e sei, le ho cambiate. Giuseppe, lo so che tu le cose ti tieni conto, me ne sono accorto, le tieni abbastanza bene, ordinato, se no tanto vale tenere le cose. Già l'ho visto, anche quello che avevi prima, quello mi sono Ducato, se non mi ricordo male, quello che ti avevo ordinato il portabici dietro, ti ricordi? Eia, Cassa, te lo ricordi Cassa, è fiammante, Cassa, è quello, quando l'ho dato Cassa, quello lì si sono illuminati gli occhi. Tu lo tieni conto, pulito, ordinato, cioè. Le cose ci tengono conto, alla fine, se gli vuoi dare un valore, poi se lo tieni tutto zozzo, insomma, tutto rotto, non ha più valore. Vaffa Napoli, ci spendi soldi sopra. Poi guarda, Antonio l'ha visto anche su strada. Anto, digli se ne vale la pena. Va bene. Allora, un mio amico ne ha preso uno, Giuseppe, di quelli vecchi, l'ho guidato io. Mamma mia, Sant'Antonio mio, senza idroguida. Oh, guarda, non ti dico. Poi, lascia perdere, questo che ho io è il 145 cavalli, 6 marce, gemellato, frigo grande con il freezer come quello di casa, la stufa si accende e si spegne in automatico, se la regola è la temperatura che vuoi, si accende, se invece negli altri devi stare, c'è troppo caldo la spegni, c'è troppo freddo la devi riaccendere, il boiler con l'acqua calda sono 15 litri, doccia separata, e cosa vuoi di più? Cucina a tre fuochi, e chi più ne ha più ne metta. Sì, allora, questo di questo mio amico, 30 anni ha, ma mamma mia, l'ho guidato dalla Budi Budi alla Marina di Sosso, ma ti lascio immaginare, cosa ho passato. In che vedi ne vanno i ribrassi, i 30 anni, No, così no, perché poi è più quello che ci metti sopra che quello che ti dà il camper. Sì, e in più c'aveva il pedale dell'acceleratore alto, Giuseppe, guarda, mamma mia, infatti il piede lo trovo piegato, ma mi si addormentava il piede, no, è un Ducato, un Ducato, 30 anni, mamma mia. E vabbè, l'hanno preso perché ci ha fatto un affare, ma troppo vecchio. No, così è troppo. Così è troppo. Adesso mi sto convincendo Pierpaolo a prenderselo. Però a Pierpaolo gli faccio prendere quegli autocaravan, quelli da 15 posti. Ah, io Pierpaolo, così ci mettiamo su strada, facciamo con le strade della California. Aio! Pronti? Beh, tu non ci credi, Pierpa. Nei letti, nel camper, ci sono le reti tutte con le doghe, no? Beh, lo sai che io dormo meglio in camper che a casa, se ti fidi. Scusi, visto che lei è così pretenzioso, con o senza coperta? Cazzo alla grande. Vai, Bomboli, riprenditi la tua adesso e fai girare. Ma lo sai, Anto, il bello del camper che cos'è? Che domani mattina ti svegli e voglia di andare in posto di mare e vai in posto di mare. Se non ti va il mare, dici oggi me ne vado, oggi voglio la casa in montagna e hai la casa in montagna. Infatti, guarda, poi c'è da ricordarsi una cosa, Anto, che le kit del camperista, il kit del camperista prevede sempre le canne da pesca e la graviglia. Ehi, ma a che ora passo, Pierpa? Ciao, Pierpa, buona cena, allora, alle prossime, ciao, avanti, Giuseppe. Ehi, Alu. Ciao Pierpa, buona cena. Nel caso se non sei molto impegnato ci aggiorniamo domani. Magari domattina se riusciamo a far coincidere un caffè. Ciao. Ciao Pierpa, ciao. E tu Lu, te sei combinende. Anche l'ora per me, dai. Ce la sentiamo. Anto. Ci aggiorniamo, dai, per qualsiasi cosa già lo sai, ho uno squillo, un messaggio, un coso e ti facciamo una chiacchierata alla grande. Ciao Anto, buona cena e buon tutto, avanti lui. Ciao Anto, dai, alla prossima. Guarda, sto combinando, niente di che Giuseppe, dai, sempre il solito tran tram. Ma l'importante al giorno d'oggi, mi o Lu, tirare la giornata, solo quello, tanto non mi pare che cosa all'orizzonte non se ne veda, cioè spiragli di luce all'orizzonte, tutti promettono, tutti fanno, però mi pare che sono tutti precisi. Confermo, è vero, vabbè, no, già poco, dai. Una mano qua, una mano là, se purtroppo non ce n'è. C'è gente che sta peggio, dai. Io alla fine, sì, mi lamento, ma quel poco già riusciamo a tirarlo fuori. Lo so, ma almeno tu ti dai da fare, Lu. Io vedo gente che si lamenta, casa, però a travagliare quel poco che c'è, manco ci va. No, io vado, fanno sempre comodo. Ti faccio un esempio, se oggi faccio un computer, no? Un esempio. Poi domani mi chiamano in cantiere e vado anche in cantiere. Ma è così che bisogna fare lui, d'altronde te l'ho detto, uno quando riesce a tirarne la giornatina, per i tempi che sono meno a chi non venuta, va anche fin troppo bene, va, credimi. Lo so, non te li portano a casa adesso, ti bussano alla porta e te li portano. No, no. Poi io se ho lavoro mio, mi faccio lavoro mio. Dico, non ci posso venire perché ho lavoro mio e devo terminare. Però se ho quello, domani ne ho un altro, vado a fare un altro. Ma non ho paura, ecco. Ci metti un trasloco, come è successo. Dico, trasloco. Ti fai sempre quella qualcosina di soldi. Quello che è, Giuse, non c'è problema, non mi arrendo, eh. Ah, guarda, fai bene, e ciò ti fa onore. Ci mancherebbe altro, mannaggia. No, bisogna prendere tutto. Oggi come oggi non bisogna lasciare niente, perché arrivati a un certo punto io faccio come dice un mio amico mi. Dice, Giuse, arriviti a come siamo messi oggi, comincia a fare come la formica. Tutto quello che riesci a metterti dentro casa è ben arrivato. E si conferma. È così. Vabbè, dai, già va bene, dai. Poi se arrivano tempi migliori, va bene, sei più contento, ma comunque. Meno male che mi arrangio, dai. Comunque sto sempre su internet cercando, capito? Sempre di imparare di più, se no un casino, ma è una cosa bella, a me, a parte, vabbè, lo faccio come lavoro, ma è un hobby. Ma almeno tu te lo sei inventato il lavoro, Lu, e bene o male ti sei anche adeguato, hai cercato di studiando, provando magari, e cosa sei riuscito a andare avanti, e quello non è poco, mi. Ma io grazie a Dio mi arrangio a tutto, poi se ho difficoltà chiedo al più esperto, conosco, guarda che ho questo problema, fai così, così, così. Se riesco, di mio, sai, c'è anche il computer, io diciamo che la maggior parte delle cose le ho imparate nel computer, leggendo, guardando video, e diciamo non è facile, perché se sbagli e fai danno, un casino. Ne ho fatto danni, Giuseppe, lo ammetto, però dai, già è una cosa anche che a me piace molto fare, molto. Oh Lu, il discorso è questo, mica, è come dice qualcuno che sbagliando si impara. Se non fai niente mai riuscirai a arrivare a quello che vuoi tu. Ma è normale, tutti nella vita, chi più chi meno, sbagli ne abbiamo fatto, però facendo gli sbagli si correggono e correggendoli si arriva a fare le cose giuste. E grazie a Dio la mosca da sopra il naso già te la toglie adesso, ci mancherebbe altro. Sì, allora già mi arrendo. Ti ho perso. C'ho il PTT, Giuse, che sta difettando, me ne sono accorto da stasera. Aia, allora bisogna chiamare un tecnico. No, io me lo apro, me lo controllo. Perché la radio è nuova. Vero, che radio stai usando, Lu? CT3, non mi ricordo il nome. Ma poi dice Graziano, Boyfeng. Non farà la Baofeng, no. Graziano dice Boyfeng. Anch'io sto usando quella, ma vanno bene, Milo. Sì, ma il PTT lo sto sentendo, strano, non è più lui. Io questa la uso anche quando sono in servizio, però quando sono in servizio uso l'altro microfono. Ah, ecco. Ma avete una frequenza vostra? K. Ma sempre là, sì, sì? Sì, Lu, sempre lì. Ho capito. È un casino. Adesso vediamo un po' domani. No, me la porto a casa. Lunedì me la controllo, vediamo un po'. Perché sta facendo questo problema. perché c'è il tassino, sono come quelle, cioè, quei tassini che ci sono nei televisori, no? Cioè, tipo quello, io lo cambio subito. Sì, ma infatti, perché poi è brutto, sembra che stai uscendo, invece arrivati a un certo punto, di botto si ammutolisce. Ma infatti non è più lui, ma non so. C'ho anche il microfonino, Giuseppe, ma non esce bene, esce male. Vero, ma il microfonino come ce l'ho io, quello che lo attacchi i due jack di fianco? Positivo. Quello uso io, perché molte volte quando siamo in servizio, quello lo attacchiamo su al bordo della camicia, perché molte volte se c'è rumore, se c'è cosa, non senti la chiamata. Sì, beh, certo, ce l'hai vicino, è normale che lo senti pure. Se si rompe il PT, quale? Sì, anche adesso sei uscito a sbalzi. Vabbè, andate, dai. Beh, ma sì, allora sai che cosa facciamo? Sono 7:45. Adesso cominciamo a apparecchiare la tavola piano piano. Sì, a Giuseppe, dai. Tanto mi stavo guardando, sto disturbando la mia 25 che sta guardando canale 5. Intanto appena finisce andiamo anche noi a fare carica, dai. Mi ha fatto piacere, fatti sentire spesso, noi siamo sempre qua. Poi magari ci sentiamo tramite il telefono, non so se te l'hanno detto di quell'app che c'è su Play Store, quel Midland, se ci di baracchino. Sì, io sono già operativo. Ah, ecco, ho capito. Allora mai ci sentiamo lì nel canale, stanno nel canale 1. Va bene Giuseppe, dai, di lusso. Andare, ok Lu, dai, una stretta di mano per qualsiasi cosa, già lo sai dove sono, altro non ti posso dire. Buon proseguimento di serata Lu, ci sentiamo presto. K, tutto ricambiato, quando vuoi già lo sai, ciao Giuseppe, salutoni, buona cena e buon tutto e alla prossima, ciao. Grazie anche a voi, ciao Lu, un abbraccio, ciao. Chi è che stava chiamando? Ciao a tutti, buona serata. Aspetta, ma ne sei uscito da dentro la patita, Marco? Stavo mangiando fino a poc'anzi, dai. Ciao anche all'amico Giuseppe, che noi qua non ci siamo mai sentiti, dai. Ciao, ciao a tutti, buona serata. Ciao, ciao Marco.